l'Unione Giovanile Comunista per portare avanti questo grande progetto, l'idea del nuovo patto tra i giovani e la democrazia. Noi siamo partiti da un punto su cui scarsamente si riflette da parte di altre organizzazioni giovanili. Oggi molti sembrano negare che c'è una crisi delle organizzazioni giovanili. Lotta Continua si scioglie nel cosiddetto movimento. I gruppi estremisti vedono restringersi l'area dei consensi. Sorgono nuove forme di organizzazione e di partecipazione delle masse giovanili, innanzitutto intorno al movimento cattolico. I movimenti giovanili degli altri partiti scontano una netta incapacità a dilatare le proprie basi, la propria area di partecipazione e di battaglia politica. Noi restiamo comunque, nonostante i nostri limiti, l'unica grande organizzazione giovanile presente nel tessuto nazionale, la più forte, la più estesa, la più radicata tra le masse giovanili del nostro paese. Ma nonostante questo, solo noi sembra ci siamo posti questo problema di come rispondere alle tendenze di crisi che sono presenti nelle organizzazioni giovanili. Che cosa è in crisi oggi nelle organizzazioni giovanili? Io credo che sia in crisi una sorta di giacobinismo che viene fuori dalla tradizione del 68. L'idea cioè che i movimenti giovanili debbano essere piccoli partiti, gruppi movimenti, sette organizzate e chiuse al confronto con le grandi masse dei giovani nel nostro paese, che il gruppo e il partito si organizzano intorno ad una ferrea difesa, intorno alla propria ideologia, alla propria linea politica. Invece vediamo che nel mondo giovanile si allargano le domande, le richieste di partecipazione di un nuovo modo di organizzarsi, di essere protagonisti. Qual è il pericolo oggi dinanzi a questo processo? Il pericolo è che in assenza di una nostra iniziativa ed anche di una proposta di riforma organizzativa della nostra organizzazione, tutto ciò assuma le forme di un'americanizzazione che Togliatti vedeva come il pericolo più grande tra la gioventù. L'idea cioè della dispersione nel piccolo gruppo, nei gruppi di pressione, nel ritorno alle culture del privato. E questo processo che noi vogliamo combattere e arginare, oggi proponendo anche un nuovo modo di essere, di organizzarsi della nostra organizzazione. Nel fare questo, compagni, e lo faceva anche bene Fumagalli nella sua relazione, noi ci riportiamo alla riflessione di Togliatti e alle idee che in essa erano contenute per quanto riguarda la proposta di organizzazione della Federazione Giovanile Comunista. Togliatti lanciava un'accusa negli anni 50 a chi aveva rotto l'unità delle organizzazioni giovanili. E dinanzi a questa rottura di cui si erano rese colpevoli le forze che puntarono alla rottura dell'unità antifascista, Togliatti avanzò una proposta di organizzazione giovanile. Una proposta, compagni, che si differenziava fortemente anche dalle idee di organizzazione giovanile proprie del movimento comunista e di altri partiti comunisti. Qual era la proposta di Togliatti? Togliatti diceva: voi dovete dar vita non al Partito dei Giovani, lo hanno ricordato molti compagni, ma ad un'organizzazione che, sebbene legata col PC, non si confonde col Partito Comunista Italiano, che è qualcosa di più largo, diceva Togliatti, per gli obiettivi che si pone e per il modo come è organizzata, che è un'organizzazione di tutta la gioventù disposta a battersi su un terreno di rinnovamento, di battaglia democratica per la conquista di una nuova società. E Togliatti diceva: per costruire questa organizzazione occorrono forme più elastiche di quelle del partito. Un'organizzazione che nell'idea di Togliatti doveva essere persino più numerosa del Partito Comunista Italiano. Oggi noi crediamo non ci sono le condizioni per avere un'unica organizzazione della gioventù democratica. E forse non è più giusto che sia così. Ma resta l'indicazione di Togliatti che non abbiamo ancora attuato e che la tradizione delle organizzazioni giovanili di questo decennio non ci aiuta ad attuare. Noi vogliamo riprenderla, questa idea di Togliatti, con la proposta di svolta organizzativa che abbiamo lanciato con questo congresso. Una proposta, compagni, che sarà attuata in maniera graduale, attraverso un processo diretto e che deve avere il consenso di tutti i nostri militanti, ma con l'idea di costruire un'organizzazione profondamente nuova rispetto alla tradizione dei partiti della sinistra, di quelli socialdemocratici ma di quelli anche del movimento comunista del nostro movimento. Qualcosa di nuovo e adeguato al partito nuovo che esiste nel nostro paese. Un'organizzazione che dà vita ad un rapporto con la gioventù che non è più una battaglia per la conquista dall'alto delle coscienze dei giovani, ma un'organizzazione che costruisce il rapporto con la gioventù nel pieno di un confronto, nei suoi circoli, nelle sue cellule, nelle sue organizzazioni territoriali. Un'organizzazione che intende la conquista della linea politica del partito non come qualcosa di dato oggi dai giovani, ma come qualcosa che bisogna appunto costruire con l'iniziativa, col confronto, con la battaglia politica dentro l'organizzazione, dentro i nostri circoli. Di qui, compagni, l'idea che abbiamo avanzato del circolo politico-culturale, della sua apertura, della dilatazione della sua iniziativa intorno a tutti i temi della condizione giovanile nel nostro paese. Non, compagni, per fare meno politica nei prossimi mesi. Non ci sarebbe concesso dalla situazione politica del nostro paese. Non potremmo pensare ad altro mentre la democrazia italiana è sconvolta da una dura battaglia contro le forze delle persone, ma per saldare più intimamente la conquista politica alla battaglia per cambiare la condizione materiale, culturale, ideale delle grandi masse giovanili. Io, compagni, vorrei quindi concludere su questo punto della battaglia per il rinnovamento, per l'apertura, per la riforma della nostra organizzazione. Riprendendo, compagni, se me lo permettete, ancora una volta un'indicazione di Togliatti su questo terreno. Nel 1947, mentre avanzava la divisione, la rottura tra le forze democratiche, Togliatti lanciava un appello alla gioventù italiana. Un appello ad essere forza indispensabile e viva della ricostruzione democratica del nostro paese. La rottura, il sistema di potere, la discriminazione verso il nostro partito hanno impedito in questi 30 anni che la gioventù assurgesse a forza motrice e protagonista della vita politica del nostro popolo. Oggi qualcosa è cambiato. Ci sono tendenze e processi che portano all'unità, alla convergenza tra le forze democratiche. Riprendiamola, compagni, questa indicazione di Togliatti, di tornare a fare oggi, ambiziosamente, della gioventù italiana, di questa generazione, la nuova forza motrice per la salvezza della Repubblica, per l'esaltante ma difficile compito di dare al nostro paese e al nostro popolo una nuova società. Noi vogliamo fare questo, contribuendo anche con l'apertura della nostra organizzazione a portare nuove masse di giovani in questo processo. Non per staccarci, come qualcuno ha inteso, dal partito, ma per essere invece il reparto più avanzato interno al nostro movimento, con l'orgoglio e la fierezza di essere il reparto nuovo di una grande storia, di un grande partito, il nostro partito. Senti, oggi discutono alla Camera la legge sull'aborto, tu cosa ne pensi? Io sono contraria. Cioè sei contro l'aborto? Sì. Come mai? Beh, perché è un diritto alla vita, penso questo, che sia un diritto alla vita e non penso che le altre abbiano il diritto di decidere della vita di un'altra persona. Ecco, secondo te neanche la madre può decidere, se anche se ha dei problemi non lo può allevare? Io quando ci sono problemi veramente o di salute o di condizioni economiche di una famiglia e via dicendo, ma non lo ammetto quando lo fa solamente per il gusto di farlo, per provare chissà che cosa. Ecco, questa legge... Io penso che sia più... più giusto fare una campagna contro i contraccettivi che non una campagna per l'aborto. Cioè favorire i contraccettivi, sì, insegnare esatto, alla gente come si fa. Esatto, la conoscenza su tutto quello che è il rapporto sessuale e tutti i metodi antifecondativi. Tu quanti anni hai? 22. E che lavoro fai? Lavoro in un bar privato. Senti, quindi sei contraria naturalmente al fatto per esempio che le sedicenni decidano? Sì, sì, sono molto contraria perché non penso che abbiano quella maturità di poter prendere determinate decisioni come decidere della vita di un altro. Però questa legge qui prevede appunto dei casi, per esempio il fatto che una donna è talmente povera da non poter allevare il figlio, oppure sì, che ne va della sua vita, ecco, oppure che ha delle ripercussioni tipo psicologico. Sì, ecco, questo lo ammetto, senz'altro sono favorevole all'aborto, ma in altri casi no, quando non lo tengono in considerazione non sono affatto favorevole. Tu vuoi che a questa legge votino a favore o contro in Parlamento? Ma non è una risposta che riesco a dare perché penso che sia... Soprattutto la coscienza di ogni individuo, non è una cosa che ognuno può dire favorevole o contrario, dipende dalla coscienza di un individuo. Quindi non c'è bisogno di una legge su questa roba? Ma non penso, esatto, non lo trovo, cioè non l'ammetto fino a quando ci saranno medici che speculano sull'aborto o che lo fanno in condizioni che possono nuocere alla salute di una donna. Ecco, quello non lo ammetto perché allora legalizzarlo in questo senso sì, per non favorire ancora di più i medici a specularci sopra. Però per quanto riguarda quelle ragazze molto giovani che lo fanno solamente, hanno rapporti sessuali così, tanto per averli, no. Oggi discutono sulla legge per l'aborto. Lei cosa ne pensa della legge e dell'aborto? Io penserei di fare l'aborto, signora. Bisogna fare l'aborto? Sì, perché c'è meglio gente creatura che soffrono in giro. Per mettere a mondo i bambini e poi lasciarli a patire, è meglio lasciarli dove sono. Sulla legge per l'aborto, lei cosa ne pensa? Oggi ne stanno discutendo alla Camera. Guardi, signorina, io personalmente sono contraria. Perché? Perché penso che oltretutto, insomma, è una cosa buona in quanto se ci sono dei motivi, come dicono, di salute e tutto, ma se lo ammettono va a finire che ce ne saranno un'infinità. Ma già ce ne sono un'infinità, dicono che ce n'è più di un milione, in Italia ci fanno sui soldi i medici che lo fanno pagare carissimo. Va bene, se lei pensa, insomma, lei come sta dicendo, mi vuole dire che c'è lo stesso anche oggi, pagando. Beh, allora se lo ammettono che facciano pure, ma per me personalmente non basta. È d'accordo. No. Sull'aborto cosa ne pensa? Va bene se lo fanno. Ma è d'accordo anche con questa legge? La conosce lei questa legge che stanno discutendo oggi? Sì, su per giù la conosco. Ecco, c'è qualcuno che la critica perché non permettono alle quelli che hanno meno di 16 anni di decidere loro? No, possono decidere anche quelli di 16 anni. Ne fanno più quelli di 16 anni che quelle altre più... Ormai noi che abbiamo più cervellone facciamo di meno. E secondo lei il padre del bambino deve decidere o aspetta soltanto alla donna di decidere? Ma non so io che idee... Quello lì è da vedere come si trovano, perché delle volte si trovano anche... Si può trovare anche con un altro, non col padre, anche il padre del bambino, magari quello lì è nei guai, con la moglie, quello lì è da vedere. Da vedere casi per casi, non è da dire che si fa quella legge e basta, ognuno ha il suo caso. Poi c'è chi critica questa legge perché dà molto potere al medico, cioè la donna deve andare dal medico, se il medico dice di no deve ritornare dopo 7 giorni. Secondo lei ci vuole questo ruolo del medico? No, non ci vuole assolutamente quella roba lì, perché tutti i medici dicono di no, anche quando lei è tornata dopo 8 giorni, lo stesso, dopo 7 giorni. Quindi il medico non ci dovrebbe... No, non c'è niente. Solo io sono molto emancipata, anche se ho una sola figlia, e basta. Ma sono molto emancipata con la nuova legge e tutto mi sta bene. Cos'era quello che hanno fatto prima? Sul divorzio mi sta bene, anche se con mio marito vado molto d'accordo, che non ha, sono 12 anni, 13 anni che ci siamo sposati e abbiamo litigato mai una volta, però mi sta bene quella legge lì, la legge nuova che sta facendo. Perché chi non va d'accordo deve avere il diritto di... Sì, il diritto di disfarsi, di farsi un'altra vita, ecco. Sentiamo un uomo, io stavo sentendo delle donne sulla questione dell'aborto, sentiamo cosa ne pensa un uomo. Guardi, io non so, su queste cose qua non me ne intendo io. Io non ho... Ma oggi ne stanno discutendo in Parlamento, verrà votata anche da degli uomini, parlamentari, deputati. Che a me non mi interessa, io sono vecchio, qui sono giovane, guarderei anch'io, ma io sono già vecchio, allora non mi interessa, grazie. Cosa ne pensa della legge sull'aborto che stanno discutendo oggi alla Camera? Guardi, secondo me piuttosto di vedere i bambini a soffrire e che li buttano via, e sì che li lasciano, li uccidono, insomma, è meglio, preferisco l'aborto. Senta, ma lei... Il senso umano, ecco, per non essere abbandonati, trascurati, che le manca il necessario. Quindi per il bene dei bambini stessi, non soltanto della madre? No, no, per i bambini, ecco, solamente il bene dei bambini, solo per quello. E c'è però chi dice che questa legge ha dei limiti, lei l'ha seguita un po' come... Guardi, io non seguo mica troppo questa faccenda, però umanamente per quello che si vede... E il mondo che si presenta, guardi. Secondo lei deve decidere soltanto la donna o anche il marito o il compagno della donna? Dovrebbero essere consenzienti tutte e due, sia il marito che la moglie, insomma. Non è la donna che poi deve allevare il bambino, eccetera, che ha più diritti di decidere? Sì, beh, la moglie sì, ma in certo qual modo c'è anche il marito che ha una responsabilità per la crescita del bambino. Per qualsiasi cosa, insomma, ecco. Lei ha avuto delle conoscenti, amiche che hanno, sono state costrette a fare questa cosa? No, questo no, non ho avuto nessuno. Nelle mie conoscenze tutti hanno avuto il proprio bambino, sa. Adesso io come età sono già avanti, diciamo. Quanti anni ha? Io ho 66 anni. E sa, la nuova generazione adesso si lascia un po' desiderare nella crescita dei figli, in più anche nella sorveglianza, perché i bambini vanno custoditi, vanno educati. Quello che invece vediamo che lasciano la maggior libertà di fare quello che vogliono e trovo una cosa, insomma, piuttosto di crescerli male, meglio che ci sia, ecco. L'aborto, cosa ne pensa? Non ne penso bene affatto affatto. Ho 5 figli, li ho avuti, li ho voluti, ma guardi, l'aborto per me è una cosa da non prendere in considerazione. Ma molte volte capita, per esempio, non so, mettiamo nel meridione che una donna ha 7-8 figli, sì. E a un certo punto la miseria, eccetera, la costringe a fare anche questo atto, perché adesso guardi, di aborti ce ne sono tantissimi in Italia. Se parliamo dal lato dell'ignoranza del meridione, io perdono tutto, perché tante persone non arrivano a capire veramente la cosa in se stessa, quella che è, cercano di liberarsi e basta. Come fanno? Però anche al nord ce ne sono moltissimi, per esempio in una città levare un bambino è una cosa. Al nord io non lo perdono, perché specialmente nei centri evoluti, dove ci sono tanti, ci sono tante cose praticamente che possono evitare di arrivare a quello, io non lo ammetto. Però forse è più difficile allevare un bambino a Milano che non in un paese